La borsa che scende. Parigi cede l'1,17%, Francoforte. La rabbia che sale. La cronaca che ci spaventa. Tre vittime forse in una lite tra vicini. La politica che non ci accontenta. Lei impari a fare il politico. Oh. Arriva la domenica, è il momento di deporre le armi e di portare a casa i premi. 1.000 euro da spendere in libri, CD e DVD sulla Feltrinelli.it con il mistero in 24 minuti. E il primo indizio sarà questo. Il riposo del guerriero, ogni domenica alle 10 con Stefano Gallarini su Radio 24.